Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21 passate da 3 minuti, buonasera da Blu Radio Veneto, buonasera dal sottoscritto Agostino Spolaore, che anche questo giovedì 10 maggio 2012 qui presente fino alle 22.30, ora in cui poi succederà Alberto Prisco con il suo programma di musica rock. Questa sera vi tranquillizzo subito, c'è, sarà presente con la sua trasmissione ovviamente, insomma vi terrà compagnia con la sua musica rock. Allora, insieme a me come sempre c'è un caro amico, come ti devo definire? Un collega. Buonasera a tutti. C'è Maurizio Calzavara che assieme al sottoscritto anche questa sera avremo un live, e quindi anche questa sera saremo qui intenti a scoprire questo artista che ci raggiunge da Ravenna. E intanto ti diamo il benvenuto. Ciao Alessio, benvenuto. Ciao a tutti, grazie davvero. Benvenuti a voi anche. Non vedevo l'ora di conoscervi, ecco. Grazie di aver accettato l'invito. Ti rubo qualche secondo prima per ricordare i nostri dati tecnici. Quello diciamo telefonico è per i vostri contatti, per chiamarci, insomma. Il numero telefonico è, dicevo, allo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo è il 346 23 20 033. Il nostro sito dove potete ascoltarci in streaming, cioè www.bluradioveneto.it, lì trovate anche tutte le informazioni inerenti nella nostra regione, ma non solo, anche per quanto riguarda la musica e quant'altro, insomma, anche eventi, anche qualcosa che può capitare, insomma, qualche fatto straordinario, anche qualche comunicazione, ovviamente c'è di tutto, soprattutto specialmente per il Veneto, ma trovate, dicevo, anche qualcosa al di fuori della nostra regione. Poi ancora vi ricordo le nostre pagine di Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, oppure Blu Radio Veneto Rock Wave. Questa è una pagina dedicata semplicemente alla musica rock e anche agli eventi, insomma, ma comunque trovate un po' di tutto, gestita quasi totalmente dal nostro direttore artistico, cioè Alberto Prisco. E poi ancora vi ricordo le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, quindi benvenuti anche in frequenza se ti state ascoltando via radio. Penso di aver detto tutto, adesso c'è lo spazio per questo cantautore simpaticissimo, bravissimo oltretutto, con questo Non ho più pace, il suo disco d'esordio, giusto Alessio? Giustissimo, ti ringrazio tanto. Disco d'esordio, sì, non ho più pace, questo è il mio disco di esordio, che mi rappresenta, come dico sempre, a 360 gradi, rappresenta il momento in cui... Insomma, dicono che il CD, insomma, la musica è una cosa propria, nel senso che è un figlio tuo, giusto? Assolutamente. Una cosa che nasce dal di dentro e... Cresce e poi, insomma... spero che abbia un buon riscontro, è la cosa fondamentale, che arrivi a più persone possibili, che abbia della visibilità, per cui mi auguro questo. È un CD che è frutto di tantissime presenze dal vivo, tu hai suonato moltissimo da tante parti, ed è frutto di un amore prima partito con la batteria, tu suonavi la batteria, poi folgorato sulla strada di Damasco hai trovato la chitarra. Sono stato folgorato, sì. Ho imparato così a suonare la chitarra un po' in famiglia, perché avevo dei cugini che suonavano, sai, anche quei quando si vanno in chiesa a suonare con i cori, certo. Si accompagna con la chitarra, io frequentavo molto, insomma, così, quindi mi affascinò subito lo strumento e mi appassionai, cominciai ad impararlo un po' da solo, poi da lì poi è nato tutto, insomma. Certo, perché è facile fare una band con chitarrista, è un po' difficile fare una band con batterista. assolutamente, anche se poi se andiamo a vedere bene, è una questione molto, molto pregiata avere un batterista e una band. È vero, sono sempre molto richiesti, esatto, batterista e bassisti sono sempre molto richiesti, però se ci pensiamo bene, no, la musica proprio nasce con il ritmo, no? I primi suoni sono stati quelli di tamburi. Sì, dei tamburi, di percussioni, chiaramente. Di percussioni. Sì. Beh, poi la batteria, voglio dire, mi innamorai anche lì fui folgorato, vidi, insomma, suonare degli amici, dei conoscenti, no, voglio suonare quello strumento lì, assolutamente, e quindi sbacchettavo ovunque, con queste bacchette comprate, sbacchettavo ovunque, ormai non mi sopportavano più in casa, però è stata comunque una bella esperienza anche lì, ho imparato, insomma, a suonare lo strumento. Insomma, a scuola poi ce l'avevi nel sangue, insomma, questa passione. Ma sicuramente era una propensione, perché a 6 anni sono stato messo su un palco i miei mi hanno messo su, ero dalle suore, quindi andavo e quindi mi facevano recitare, cantare, da lì credo che poi mi sono portato tutto dietro. Per cui bene o male sono sempre stato dentro la musica. Quindi non avevi paura del palco, assolutamente? No, è stata quasi in maniera molto naturale. Sicuramente quando mi ci hanno messo per la prima volta, sì, avrei voluto far altro, però poi mi ci sono abituato e ci ho preso anche gusto, ecco. Poi dicevi nella biografia che ti regalavano anche molto caramelle perché avevi una bella voce. Sì, ecco, questo è un aneddoto molto carino, perché mi son dato una spiegazione del perché io oggi sono qui a parlare della mia musica e a fare musica. Perché ricordo sempre con molto affetto un episodio, un Natale, avevo tipo 6 anni, qualcosa del genere, e dopo una recita, tra l'altro ero Napoleone, attenzione, dopo una recita arrivarono tantissime persone a sbaciucchiarmi, a complimentarsi. Arrivarono i miei in ultimo con un Babbo Natale gigante pieno di caramelle. Ero il bambino più felice del mondo, era tutto magico, no? Quindi ho pensato che in realtà oggi io mi ritrovo a far musica comunque per questa, come dire, per dire io esisto, cioè sono qui, cioè aspetto un qualcosa, aspetto l'affetto delle persone, è sempre una ricerca, no, d'affetto, di essere comunque accettato, no? Parte tutto da lì, secondo me. Quindi credo che sia un'ottima psicanalisi, no? Che mi sono fatto autopsicanalisi. Addirittura. Ma me ne faccio tanti di autoterapia. E poi scrivo, fondamentale, insomma. Però sei una persona sensibilissima, questo lo posso confermare. Ti ringrazio. Almeno da quel poco ti ho conosciuto telefonicamente, ovviamente, insomma. Però io ti vorrei già sentire qualcosa. Cosa dici? Facciamo ascoltare qualcosa? Assolutamente, siamo qui per questo. Insomma, mi sembra giusto. Assolutamente. Cosa ci fai ascoltare? Facciamo qualcosa. Hai scelto dal disco, diciamo. Ah, dal disco. Ma io, dato che il disco prende il nome di Non ho più pace, la title track. Io farei ascoltare questa, che un po', no, anticipa tutto il discorso dell'album. Tu hai detto in un'intervista, ho letto fra le righe, che vorresti sentire, esagerare dal punto di vista del volume. Questo è un pezzo da esagerare dal punto di vista del volume, sì, secondo me, creato proprio in questa dimensione. Porta comunque, no? Anche, voglio dire, quando una persona comunque insofferente, ma non parlo soltanto dal punto di vista negativo, ma anche positivo, no? Quell'inquietudine positiva di fare, no? Di non questo trovare... è un pezzo di denuncia, in ogni caso. Di denuncia, assolutamente di denuncia, però generalizzando, non si ha più pace a volte anche perché si ha tanta voglia di fare, così. Questo è un pezzo di denuncia, però si è portati ad ascoltare musica a palla, come dicono i giovani, a pompare la musica, per cui facciamola pompare, no? Certo, ok. E ascoltiamo allora, a volume alto, a volume altissimo. Non ho più pace, Alessio Creatura. Voglia di stare a sentire, sentirmi dire che cosa non dire. Non ho più voglia di farmi comprare. Non ho più pace, non ho più voglia di fare l'amore con chi mi dice che ho perso l'onore. Non ho più voglia di starle a spiegare. Non ho più pace e in più qualcosa sta male. Più non mi piace. Dietro c'è sempre una scusa che mi delude. Non ho più voglia di stare a sedere e bere giorni di tutte le sere. Non ho più voglia di starli a contare. Non ho più pace, non ho più voglia che a tutte le ore tradisco vite e respingo l'amore. Non ho più voglia di starmi a mentire. Pace, e in più qualcosa sta male, più non mi piace, dietro c'è sempre una scusa, ed io non ho più pace. Giuro, non ho più voglia di fare le scale, salire o scendere oggi a che vale, neanche più voglia di citofonare. Non ho più pace, non ho più voglia di fare progetti, spazio alle idee dei signori architetti. Non ho più voglia di edificare, edificare. E in più qualcosa sta male. sempre una scusa che ci divide e più qualcosa sta male, c'è che non ci piace, dietro c'è sempre una scusa. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ecco, avete sentito la grinta di Alessio Creatura in questa canzone che apre l'intero lavoro, insomma, queste 10 tracce. Questa era Non ho più pace, che tra l'altro mi dà anche il titolo. Certo, la famosa certo. Title track, come piace dire all'inglese. Title track, e poi insomma è un concept album, quindi in qualche modo va a anticipare i temi che poi sviluppo nel corso del disco. Un disco che parla d'amore. anche d'amore, anche, perché poi tanto l'amore c'entra sempre, anche se c'è un brano che dice dal titolo dimmi che cosa c'entra l'amore, quindi me lo chiedo. Proprio, chissà nel disco quanto c'entra l'amore, non lo so, ce lo domandiamo. Questo è un pezzo molto forte, oltre dal punto di vista del testo, anche dal punto di vista musicale, arrangiamento curato bene, potente, però come può essere nato un pezzo così potente? Sarà nato con chitarra e voce o no, Alessio? Ah, come tutte le canzoni di Alessio Creatura, poi non so di altri, comunque sì, è nata, se è nata ti faccio, sì, ti faccio sì, ascoltare fammi sentire qualcosa. Un secondo com'è nata. È nata un po' così, ecco, facendo dei giri, poi è nata di getto, quindi le canzoni nascono di getto e poi sono quelle in realtà che arrivano, no? La gente meglio. Le avverte. Esattamente. Fa così. Non ho più voglia di stare a sentire, sentirmi dire che cosa non dire, non ho più voglia di stare ad ascoltare, non ho più pace, non ho più voglia di fare l'amore con chi mi dice che ho perso l'onore, non ho più voglia di starli a spiegare, non ho più pace e in più qualcosa sta male. Più non ci piace, dietro c'è sempre una scusa già che ci delude. Ecco, non era previsto, Agostino, lo so, tu ho sconvolto la tua scaletta. Non mi sono. Io faccio sempre così, lo sai, non era previsto. Non mi ma sono sì, spaventato. Ma sei il bello della diretta, esatto. No? Ma poi, insomma, sentire che suona dal vivo è sempre piacevole. Poi sì. Noi vogliamo gli artisti qui proprio per questo, che suonino dal vivo. È una cosa da... Come dicevi poc'anzi tu, la canzone nasce così, nuda e cruda, con una sempre. Semplice chitarra, nascono ma le melodie. Ma poi no, le canzoni le migliori credo che siano quelle che... non ha un po' bisogno, no, di tanti accorgimenti. In realtà quando arriva una canzone con una chitarra, una voce, un piano, una voce, addirittura anche a cappella magari, no? C'è un messaggio che ne vale la pena, insomma, ascoltare, sicuramente fatta, no? Per citare un brano famosissimo che tutti conoscono, Smoke on the Water, aveva tre accordi. Ma appunto Smoke on the Water. Di Evergreen, che comunque. Sì, no? Smoke on the Water è un pezzo che hanno tentato di suonare tutti, praticamente. Ci sono il riff più tutti. Grande della storia della musica rock. Aveva ci tre accordi, quindi è roba velocissima. Sì, ma poi quando nasce da dentro, dall'anima, bastano tre accordi, insomma la canzone c'è, quando si trasmette qualcosa vuol dire che ce la si è fatta, insomma. Quindi io con Non ho più pace... devo dire che in qualche modo il messaggio arriva, no? Mi sembra, certo, che arriva forte, forte e chiaro. Alessio, come nascono le tue canzoni? Cioè, voglio dire, è uno spunto da un evento, da un qualcosa che ti capita, o sono fantasie tue, insomma, una notte che stai sognando, che ne so, una mattina ti alzi e ti viene in mente qualcosa? Io credo che le mie canzoni nascono dopo un periodo di vita intensa. Cioè, io vivo determinate situazioni e poi stanno lì a macerare, no? Magari abbiamo sentito tanti artisti parlare di questo stare a macerare emozioni, ecco, avviene anche con Alessio Creatura, insomma, con me, nel senso che dopo un po' prendo la chitarra, sento che ho voglia di prendere la chitarra, escono fuori delle emozioni magari inspiegabili, parlo di cose che non mi sono accadute l'altro ieri o oggi, ma che magari sono accadute un anno fa o due anni fa, hanno comunque dovuto trovare il tempo di uscire fuori. Comunque sono cose che ti sono capitate, insomma. Sì, io le mie canzoni sono pressoché così dice, autobiografiche, ecco, tanne poi ovviamente parlo anche di tematiche sociali con un'ironia anche, mi piace molto utilizzare anche l'ironia, insomma, nelle canzoni. Spero di poter fare anche un disco successivo a questo dove la vena ironica possa anche venire un po' più fuori, perché certo, ci tengo molto anche a questo. Quindi a volte affronto tematiche sociali con ironia, così. Ti verrebbe voglia di fare anche teatro, per caso, no? Teatro? Ma teatro un po' ne ho fatto, ecco, ho fatto un po' di teatro e non mi dispiace affatto, anche perché poi la musica abbraccia anche, no, questo ramo. La musica unisce. La musica unisce e in qualche modo deve anche arrivare, quindi riuscire a comunicare non soltanto attraverso la musica ma anche attraverso il corpo, certo, la mimica, è una cosa abbastanza, certo, interessante, e ho fatto un po' anche questo, diciamo. Senti, io devo ringraziare una persona perché, insomma, grazie, sì, a lei se tu sei qui. Sì, e si chiama Linda. La conosco, mi sembra di conoscerla. Al quale veramente mando un caro saluto e un grazie per questa soffiata, diciamo così. La ringraziamo in due. Ciao Linda, un bacione e grazie di averci portato qui Alessio, insomma, questa sera. E qui ospite in studio comunque Linda, insomma. Tu hai dedicato anche il disco a Linda, vero? Sì, assolutamente, ma poi, insomma, la dedica in qualsiasi cosa io faccia è sottointesa, magari non sempre è così esplicita, ma se sono qui è comunque grazie anche a lei e alla costanza che ha, la passione che mette nel condividere questo progetto, insomma, quindi abbiamo in comune questo progetto di poter far arrivare un po' la mia musica, non sono solo in questo percorso, per cui, insomma, sono contento così. Sì, giusto, hai detto condividere un progetto, adesso lo condividiamo assieme, suoni un pezzo, suono assolutamente un pezzo dal vivo, lungo stavolta. Perfetto. Non un refrain come prima. Perfetto. Questa canzone si chiama Scarti d'umore, perché, insomma, è una canzone importante, adesso mi racconti l'antefatto di questo sì, pezzo. Sì, in realtà, per essere un po' conciso, nel senso, si apre il disco con Non ho più pace e si chiude con la decima canzone che è Scarti d'umore, nel senso, il discorso è quello: sono inquieto, sono un pochino arrabbiato, ma non subisco passivamente la vita, anzi, insomma, cerco di combattere, no? Come tutti dobbiamo fare. E questa è una canzone, Scarti d'umore, un po' che fotografa l'essere artista, nel senso, l'artista ha dei cali terribili di umore, cioè, quindi c'è un saliscendi continuo, come stare sulle montagne russe, e ho cercato di fotografare quella situazione lì, insomma, cercare di spiegare cosa mi accade quando non sto proprio a mille. E a volte racconto, appunto, nella canzone, avrei voglia di prendere le valigie, salutare un po' tutti e dire forse ci si rivede. Si chiama la canzone? Scarti d'umore. Radio Veneto, era come non l'hai mai sentito. Qui regalo i miei scarti d'umore. Qui regalo anche quelli, se poi c'è chi li vuole. Regalo i miei scarti d'amore. Qui rimango con quelli e le persone sole. Chissà cosa ritorna a far male, nella coscienza cosa rimane. Chissà che cosa torna a tradire per non farmi dormire. basto i miei sogni, qui vi mostro i miei segni, qui rinuncio agli inganni, qui, qui, qui pago ancora pegni, oh. Qui vi canto i miei sbagli, se poi c'è chi li sente, oh. Qui preparo i bagagli, i bagagli, con la povera gente, yeah. Chissà cosa ritorna a far male, nella coscienza cosa rimane, chissà che cosa torna a tradire per non farmi dormire, yeah. Chissà che cosa torna a fermare questa continua voglia di andare, chissà che cosa torna a impedire per non farmi partire. Qui racconto gli abbagli di chi adesso non crede, no, non crede. Qui ho già pronti i bagagli, già, forse ci si rivede. Ci si rivede, forse ci si rivede, ci si rivede, ci si rivede, forse ci si rivede, ci si rivede, ci si rivede, forse ci si rivede, ci si rivede, ci si rivede, forse ci si rivede. Ok, benissimo, questa è la versione acustica, unplugged, assolutamente unplugged, di un pezzo che già nell'insieme era, aveva una, all'inizio acustico, un arpeggiare acustico, poi prende piede il pezzo, sì, si sviluppa e poi ritorna sulle acque calme. Non hai pigiato l'acceleratore mai, lo appigi lentamente, sì, però, ma non così fino in fondo. Allora, in realtà vi spiego un po' la storia di questa canzone. E, l'arrangiamento l'abbiamo... Citiamo quella gente che ti ha dato una mano, i musicisti di grande assolutamente, valore. Assolutamente, beh, gli arrangiamenti sono di Lorenzo Sebastiani, che è un direttore d'orchestra, direttore fa un sacco di cose. È stato anche a Sanremo, ha diretto Il figlio di Mogol, Francesco Rapetti, l'anno in cui partecipò. Poi comunque è stato il direttore artistico di Rent, certo, questo musical prodotto poi dalla Mantovani, sì, insomma questo musical americano. E poi niente, ha lavorato nel disco di Celentano con Mietta, è stato anche un po' il braccio destro, ha fatto anche disco per l'estate un po' di tempo, sì, fa, sì, perfetto, e anche Centonze, Michele Centonze, certo, che è poi il songwriter anche di Lorenzo Giovanotti, certo, quindi certo, Lorenzo. Per cui un personaggio di grande statura. Di statura, e mentre hai, insomma, alle chitarre, agli strumenti, diciamo, abbiamo alle chitarre Andrea Morelli, che è il chitarrista comunque ufficiale di Cesare Cremonini. Che disco nuovo è uscito, uscirà fra dieci uscirà giorni. Uscirà fra dieci giorni, esattamente. Infatti sono curioso anche di ascoltarlo. E Pier Cortese, e Mingardi, comunque tanti altri artisti. Alla batteria ho scelto un batterista hard rock. Ah, bello, va bene così. Così, diciamo, lui si chiama Dario Ciccioni, è un batterista di pacca proprio, e comunque ha un gusto nel suonare la batteria anche molto internazionale. Lui suona spesso in Germania, comunque adesso si trasferirà comunque a New York, quindi gli auguro davvero, gli faccio in bocca al lupo per la sua carriera, ma sicuramente uscirà fuori, certo, certo. E insomma, questi sono stati, questa è stata la levatura, insomma, di... non è mica una levatura di un certo tipo, certo, cioè, e poi cioè... tra l'altro è stato registrato in uno studio, il top studio di Pietro Benini a Savio vicino a Ravenna, uno studio in cui hanno registrato un po' tutti, il disco Per Sempre di Celentano, oppure non so, Gino Paoli, Lavanoni, insomma un po', un po' di tutto. Ci si respirava veramente la musica italiana, quindi mi sono divertito anche molto a fare questo lavoro. Sì. Per cui ti dicevo, Scarti d'umore, in realtà live è tutt'altra cosa, nel senso che mi diverto a renderla molto più rock. E come la fai quando, nella prospettiva live, quando la metti con la band che ma in realtà parte sempre con un con questo arpeggio, però sotto partono già le chitarre che creano dei suoni con i volumi. Ah, ho capito. E poi pian piano li allargano, poi li stringono continuamente. E poi ovviamente qui è stato fatto un taglio, una scelta, insomma, fatta. Comunque dal live vi ripropongo il solo di chitarra che qui manca la parte, insomma, del solo di chitarra. Ma qua l'hai fatta acustica, chiaramente. Sì, l'ho fatta acustica, altrimenti il solo faceva na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Questa è la parte strumentale, no? Na na na na na. Immaginate la suonata la chitarra, ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra, e poi riparte il ritornello. Oh. Yeah. Chissà cosa ritorna a far male. E via, e via. Ovviamente in vena più rock, poi mi diverto anche un po' tutti i brani a rifarli in maniera più accattivante, e più rock. Nel disco siamo versione studio, sempre un po' più contenuti. Però nella band dal vivo hai altri musicisti che sono i cosiddetti turnisti, dove hai parlato di turnisti a microfono spento. I turnisti con cui però cerco sempre di instaurare comunque un rapporto d'amicizia, perché sai, quando si è su un palco si condivide una storia, cioè comunque un progetto che duri un'ora, due ore, o duri un anno, anche più, insomma, è importante che si sappia chi si ha vicino, insomma, certo, per cui certo. Cerco sempre di instaurare un buon rapporto. Oltre a Morelli, Andrea Morelli, di cui ho parlato, Dario Ciccione, ho il piacere di condividere il palco anche con altri musicisti molto importanti, tipo Tommy Graziani, che è il figlio di Ivan Graziani, che Agostino ha conosciuto e ha intervistato. Molto simpatico, un ragazzo veramente simpatico, bravissimo, tra l'altro un suo modo particolare di suonare la batteria. Max Corona, che è un chitarrista insomma eccezionale. Stato chitarrista di Lucio Dalla anche. Lucio Dalla addirittura ha scritto anche canzoni, ha composto canzoni per adesso non mi viene il marito di Ambra Angiolini. Renga. Ok, Renga, e poi insomma tante altre cose, ha fatto tanti lavori. Comunque un disco addirittura di Lucio Dalla l'ha suonato alle Tremiti, quindi completamente, quindi dai, mi diverto anche a farmi raccontare tanti aneddoti, è sempre perché, molto bello. Perché Agostino, tu non lo sai, mi ha raccontato che lui fa il nostro collega, fa il collega anche lui, fa chi? Una Alessio? Radio, lui, Alessio, ah, è sì? una radio, un DJ praticamente. Forse me l'avevi già detto. Mi hanno chiesto, in realtà è un'esperienza nuova per me, molto divertente devo dire, ma anche molto faticosa, perché devo dire a tutti gli ascoltatori insomma di Blu Radio Veneto che fare radio poi non è poi così semplice, nel senso, perlomeno mi sto accorgendo che non è così semplice. Comunque tratto di un programma dedicato ai cantautori, quelli insomma di una volta che hanno fatto un po' la storia della musica italiana, ma non citando è nato nel, ha fatto l'album nel, ma raccontando degli aneddoti che magari si nascondono dietro le canzoni scritte. E di Alessio Creatura cosa racconti? Io spero che racconteranno, io lo spero tanto. Sì. Intanto Alessio, siamo qua a raccontarci che già è tanto. Alessio, io ti porto i saluti di un'amica che abbiamo in comune. È una nostra carissima amica, è un'amica di questa emittente, tu lo sai che lei è molto affezionata al sottoscritto, ma anche tutta la nostra emittente, anche a Maurizio, l'abbiamo avuta qui a Padova qualche giorno fa, e più ti ha fatto la recensione. Certo. E so che ci sta ascoltando, quindi magari ti faccio un saluto personalizzato, no? Giulia, sei davvero una grande artista, è un gran tatto, una grande umanità e altruismo, tra l'altro. E poi ci siamo scambiati anche i CD e trovo il suo molto molto bello, per cui anche a lei incrocio le dita per la sua carriera, per cui gli faccio veramente gli in bocca al lupo. La ringrazio per l'articolo, per la recensione, perché è bellissimo, per cui cercherò comunque sempre di condividerlo su Facebook, perché secondo me è giusto che gli si dia spazio. La ho apprezzato insomma tantissimo, assolutamente. Ciao Giulia. Ciao Giulia. Ciao! Ah, al telefono! Ciao Alessio! Ciao Giulia! È certo che ti... Come stai? Certo. Bene? Ti sei ripresa dal viaggio? Sì, bene, hai ripreso anche dal navigatore che si perdeva per strada. Me ne sono accorto insomma quel giorno. Comunque è un piacere trovarti qui, insomma, condividiamo anche questa certo. Questa avventura, anche perché devo ringraziare te, insomma, e poi non lo faccio pubblicamente. Giulia, non è che vi siete messi d'accordo tutti questi complimenti che ti ha fatto Alessio, Ma infatti no, sembra quasi che ci siamo messi d'accordo, non sembra... Ci siamo messi d'accordo l'altro giorno, no davvero, io credo che la stima sia davvero reciproca, poi quando a una persona piace qualcosa davvero lo si recepisce, secondo me arriva, e a Giulia il mio disco è piaciuto e sono veramente molto contento, perché me l'ha manifestato in tanti modi, per cui mi hai davvero convinto, Giulia. Va bene. Mi fa piacere. Poi Giulia ha detto una cosa molto bella, Alessio, a microfono spento, mentre preparavamo il programma, tu hai recensito il disco di Alessio da musicista, ed certo, è importante. Hai recepito certe cose che un recensore normale, che non è un musicista, recepisce in modo diverso. Tu le hai recepite bene perché sei una musicista, e questo è importante. Mi fa piacere, beh, bisogna aprire il cuore, no? Forse ancora di più quando si entra in un progetto diverso dal tuo, no? Già, già. E bisogna ascoltare. Poi non è facile, no? Perché, no, voglio dire, è all'ordine del giorno la competizione comunque tra artisti, no? E invece secondo me l'unione comunque fa la forza, soprattutto in un periodo di crisi anche discografica come questo che stiamo affrontando, in cui secondo me gli artisti dovrebbero proprio coalizzarsi nel cercare di dare un valore in più alla musica, e quindi dobbiamo far questo, quello che magari sta facendo Giulia per me e io magari prossimamente nei suoi confronti, per cui è importante questo. È logico che alla base di tutto deve esserci una stima, perché ci deve piacere quello che facciamo, no? Certo. Quello che si fa. Sono pienamente d'accordo, anche perché io penso che in realtà tra chi scrive canzoni inedite, nuove, non c'è la concorrenza. Che concorrenza c'è? Ognuno di noi scrive canzoni nuove, diverse, appunto, mettiamo il nostro mondo, e anzi dobbiamo proprio unirci, secondo me, per far sì che questi mondi arrivano più lontano possibile. Come diceva Rino Gaetano, no? Noi dobbiamo immaginare il mondo della musica come un'enorme torta. Ognuno può avere la sua fetta di torta, insomma, quindi questa è un po' l'immagine che voglio lasciare, ecco. Un suo pubblico, delle persone, per cui mangiamoci questa torta, Giulia, che dici? Va bene, e spegniamo le candeline. Giulia, come sempre, okay. Giulia, come sempre, grazie della disponibilità. Ma grazie a voi, grazie per quello che fate, a tutta Blu Radio Veneto, Agostino, Maurizio, Alberto che poi arriva dopo, insomma. Se ne fossero tante persone come voi, vedi, e non smetterò mai di dirlo. È vero, è vero. Mi aggiungo, l'ho pagata però prima. Mi aggiungo anch'io. Ciao bella, un abbraccio, un bacio. Ciao Giulia, grazie ancora. Ciao, grazie. Contento? Contentissimo, guarda, devo dire la verità, ecco, di Giulia, insomma, è una ragazza, è un'artista molto, molto in gamba, e il fatto, come dicevo anche a Maurizio, no, il fatto di ricevere comunque dei complimenti, un articolo, i complimenti valgono doppi, cioè, quindi anche tripli, quadrupli, insomma, sai, no? Perché una persona passa di lì e dice, ma sei bravo così, una persona invece che si sofferma a scrivere, ad ascoltare fino in fondo il disco, è tutta un'altra cosa, per cui va bene. E adesso, siccome parlavi di doppi, sì, adesso ti becchi due canzoni di seguito, ci perfetto, fai, perché così facciamo sentire la tua musica. Va bene. Cosa ci fai ascoltare? Intanto la prima. Allora, vi faccio ascoltare una ballad dal titolo A che giorno sei? Mm-hmm. E un po', come dire, mi sono chiesto, in questa canzone mi chiedo in realtà che punto sono della mia vita, quindi no, si controlla sempre il calendario, guardiamo sempre gli orologi, ma per far tutt'altro, mai per chiederci a che punto siamo davvero, tra virgolette, ci siamo capiti, e poi ognuno gli dà poi la spiegazione sua, e questa è A che giorno sei? Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Che storia è questa qui? Che storia è mai così? Io l'ho capita ormai. E tu a che giorno sei? La noia cui non puoi. Vorrei rimedio ormai. Io l'ho provata, sai. E tu a che giorno sei? Storie accese e mai incomprese, sono storie spente e sorrisi vani, chissà domani. Che storia è questa qui? Che storia è mai così? io l'ho tradita ormai. E tu a che giorno sei? Sul fuoco a cui non puoi più porre mano ormai. Io mi son bruciato, sai. E tu a che giorno sei? Storie accese e mai incomprese, su storie spente a sorrisi vani, chissà domani. Storie accese e mai confuse, su storie spente, su porte chiuse, mani deluse. Oh! Che storia è questa qui? Che storia è mai così? La storia siamo noi, corsi e ricorsi, ormai, ormai. Che dolcezza, Maurizio. Beh, molto bello questo pezzo, una ballata, sì, sembrata acustica, questa, una ballad proprio. Una ballad, sì. Io sì. Amo queste canzoni, sai? Forse non lo sai, ma i miei gusti musicali sono proprio questi. Ah, bene, bene, allora insomma spero di aver scelto bene, perfetto. Linda, a che giorno sei? Voi a che giorno siete, ragazzi? E a proposito di questo, tu hai definito che cos'è un cantautore in un modo molto bello, che è questo. Essere cantautore significa avvertire la necessità inconscia di esprimere la propria persona. E qui in questo momento hai avvertito la necessità di esprimere la tua persona. Sì. Parlando d'amore o parlando di altre cose, non importa, hai proprio espresso la tua persona. Sì. Chitarra e voce. Qua è chitarra e voce scheletrica. Nel disco è un po' arrangiata, nel disco ci vuole, ci sono i musicisti. Certo. Però non cambia niente. Il messaggio è sempre quello. È sempre quello, è sempre quello. Io dico anche magari a tanti giovani, perché adesso scardino un po' delle regole, no? Cioè, se c'è qualcosa da dire, lo possiamo tranquillamente dire in un disco e registrarlo con chitarra e voce. Certo. Chi vuole ascoltare, ascolterà. Certo. Quindi non dobbiamo stare lì a spendere chissà quanti soldi per poter fare un disco. In realtà non dobbiamo. Chi ascolterà e capirà, magari ci potrà dare una mano nel farlo. Per cui è importante scrivere qualcosa che, insomma, che arrivi, e questo, insomma, è un in bocca al lupo che faccio, insomma, un po' a tutti i ragazzi che come me cercano in qualche modo di far ascoltare la propria musica. Quindi chitarra e voce, ragazzi, andiamo nudi e crudi dritti per la nostra strada. Ecco, adesso però vai vicino al microfono, nudo e crudo, ci fai la prossima canzone. Va bene, guarda, questa qui è una canzone che un po' rappresenta lo slogan della mia vita, e vi racconto questo piccolo aneddoto, nel senso che mia madre mi diceva sempre quando ero piccolo, in dialetto abruzzese, ma qui ve lo italianizzo: ma cosa vuoi fare, Alessio? Ma te vuoi essere sempre di tutti e di nessuno? Una mattina mi svegliai e dico: ma in realtà ha fotografato anche un po' la mia persona, l'essere di tutti e di nessuno. E quindi quando mi firmo un po', anche negli autografi, così dappertutto, firmo sempre di tutti e di nessuno Alessio Creatura. E questa è di tutti e di nessuno, per voi. Ecco cosa succede se alla vita tu chiedi di me. Piangi, chissà cosa si ottiene dal domani se non si pensa più a me. Tu sei speciale, specie quando non chiedi di me. Tutto è chiaro e normale, sempre che non ti innamori di me. Dimmi che non ti innamori di me. Hey. cosa si avverte quando fuggo da ogni tuo sede. Chissà cosa promette, promette il tuo cuore, se Alessio non c'è. Già, tu sei speciale, specie quando non chiedi di me. Tutto è chiaro, è normale, sempre che ti innamori di me. Dimmi che ti innamori di me. Dico che io di tutti a di nessuno, tu appartieni già a qualcuno. Io di tutti a di nessuno. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tu sei speciale, specie quando non chiedi di me. Tutto da miretta e non a patto che non ci si innamori di me, sempre che non ci si innamori di me. Dimmi che non ti innamori di me. Dico che io di tutti e di nessuno, tu appartieni già a qualcuno. Io di tutti e di nessuno. Hai visto chi guardava, Maurizio? Sì, sì, ho visto chi guardava. Gioco di sguardi qui. Gioco di squadra. Blu Radio. Gioco di squadra. È già di tutti e di nessuno, ragazzi, perché gli artisti secondo me sono proprio un po' di tutti e di nessuno come le canzoni. Certamente. Poi c'è una cosa che ha detto Giulia sulla recensione che è molto interessante, poi quello noi che abbiamo scritto anche noi su questo pezzo. Giulia ha scritto che questa è una delle canzoni in cui Alessio riesce molto bene dal punto di vista della voce, calibrandola sempre in modo molto adeguato. E noi nella recensione, noi della redazione, abbiamo scritto questo pezzo è un pezzo molto complesso, pieno di fermate, sì, di ripartenze, difficile da gestire anche musicalmente e anche vocalmente. Come ci sei riuscito? Come ha detto giustamente Giulia, calibrando la voce. E come, oltre a calibrare la voce? Ma è questo come... Allora, in questo disco ci sono tutte canzoni raccolte poi, insomma, negli anni, scritte di getto. Quindi anche qui pochi ripensamenti, di getto, ritornello. Tu sei speciale. Insomma, così, quel ritornello lì rimane. E poi ho sviluppato tutto il resto proprio seduta a stante. Ecco. È ovvio che quando poi si entra in studio un brano come questo, così, è abbastanza originale, direi anche fuori dagli schemi, perché è proprio un brano fuori dagli schemi, sicuramente poco radiofonico, ma che racconta un po' quest'essere di tutti e di nessuno. È un aneddoto molto carino che ho voluto mettere poi in musica, no? È logico che lì dopo bisogna gestire, bisogna tenere bene le briglie sugli arrangiamenti, perché bisogna in qualche modo renderlo al meglio. E io in questo disco ho voluto fare degli arrangiamenti molto molto schietti, anche abbastanza scarni in realtà, proprio per far arrivare direttamente questo messaggio. Però hai detto bene, nel senso che non è stato facile. No, questo è un pezzo, ripeto, secondo me è il pezzo più complesso del disco, pieno di stop e di stop and go, cioè di rifermate, di ripartenze anche dal punto di vista musicale. L'idea della, come l'arrangiatore, ma in questo Lorenzo cioè, cosa ha fatto? Mi ricordo una mattina ero andato in studio e ho detto andiamoci a prendere prima un caffè che ti devo parlare di un brano. Allora ho detto guarda, io quasi quasi, perché gli feci sentire un ventaglio di canzoni, e quasi quasi io farei di tutti e di nessuno, ma non te la voglio confezionare come una canzone commerciale. Insomma, io sento che questa canzone ha una storia a sé, cioè nel senso che può raccontare bene in una maniera abbastanza originale, un po' fuori dagli schemi, anche quelli radiofonici, no? Per cui ho detto va bene, ci sto. Ecco che è nata una canzone, soprattutto dal punto di vista degli arrangiamenti, un po' fuori schema. Quindi è abbastanza... È la traccia numero 5, la traccia centrale del disco. Perfetto, perché cioè, ho voluto proprio a metà percorso. Così, per quello, a metà percorso ho voluto ricordare che sono un po' di tutti e di nessuno, prima di arrivare un po' ai miei scarti d'umore. Per cui sì, è stato, non è stato semplice, però sono contento insomma della riuscita, anche perché poi hai visto c'è questo coretto nell'inframezzo, esatto, insomma, del brano, poi riprende. Niente, hai detto, è un giusto osservazione, è stato abbastanza complesso. Sì, sì, io l'ho sentita così immediatamente, ho avuto questa sensazione. Beh, io volevo chiederti invece che effetto ti ha fatto cantare davanti a 4.000 persone prima di Roberto Vecchioni. Guarda, io credo che sia stato uno dei giorni più felici della mia vita. Cioè, nel senso che quando sono sceso giù, la stessa Linda ricorda sempre con piacere che mi brillavano gli occhi. Cioè, quindi, sai, ti trovi lassù, stai a presentare una mezz'oretta, tre quarti d'ora di tue canzoni davanti a 4.000 persone che aspettano poi Vecchioni, il professore. E quindi dici, sarò all'altezza, insomma, avrò modo di poter reggere insomma il palco. È andato tutto alla grande, forse anche oltre le mie aspettative. Il pubblico ha risposto benissimo, non mi sono mai trovato ovviamente davanti a 4.000 persone. Allora, ci sono dei video anche su YouTube, per cui chi fosse interessato. Sì, è bella quella canzone che l'ho messa anch'io, tra l'altro. Desideri diversi, sì, Desideri diversi è venuta particolarmente bene, allora me la sono sentita di metterla anche su YouTube. Tra l'altro può essere anche scaricata la versione live direttamente dal mio sito, che è www.alessiocreatura.com, quindi da lì chi vuol sentire la versione live di alcune mie canzoni può ascoltarla. E poi un'altra cosa che mi devi togliere sempre di fatti di emotività e di emozioni, Castrocaro, cosa ha significato per te? Tanto, tanto, perché più che la kermesse in sé per sé, sono i ricordi che... Proprio ho dei ricordi che provo, proprio ogni tanto ci vado su con la testa. Ricordo di essere stato accompagnato da mio padre, no? In quel periodo lì. Eri giovanissimo, sì, 10 anni fa. Sì, tra l'altro quell'anno lavoravo anche in un parco acquatico, mi ricordo, un po' di animatore, un po' di piano bar. Un po' Fiorello, sì. Allora, sai, tutti sono venuti a sapere, ah, Castrocaro, dai, sono così. Mio padre, mi ricordo di mio padre, abbiamo preso l'albergo, capito? Lì siamo stati, mio padre è stato a fianco davanti le... tutte le selezioni insomma fatte, e sono stato dei giorni, pochissimi in realtà, che ho condiviso con mio padre, delle giornate intere condivise io e mio padre, non capita spesso, no? E lui condivideva proprio il progetto, cioè condivideva queste giornate con me di musica, e poi magari si esaltava anche quando qualcuno così per strada, perché è successo, quindi non è per vantarmi, cioè, Alessio Creatura, bella quella storia, sì, ma l'anima dov'è? Qualcuno la canticchiava anche. Qui mio padre rimane anche un po', io basito per dire, senti, si ricordano anche le canzoni. E sono stati dei giorni molto molto belli, quindi li ricordo con affetto. Quindi Castrocaro mi riporta sempre a quei ricordi lì, sempre. Sì. Quindi le kermesse qualche volta servono, tra virgolette, sempre tra virgolette. Le kermesse, oggi più di altri tempi, perché a quanto pare c'è solo quella, sappiamo quali sono i format, sappiamo da dove si deve passare per poter vendere qualcosa, magari far l'artista. Ma non sono gli unici percorsi, io insomma non è che sono molto per i format, a dire la verità, insomma chi vuole può andare, tutti il resto. Io credo che la mia musica debba nascere proprio sulla strada, e quindi nei locali, nei club, ecco, secondo me insomma quello che vorrei fare è proprio riuscire ad entrare in un circuito di club di spessore, insomma di qualità, e poter presentare la mia musica. Pertanto oggi abbiamo visto quali sono i tempi, no? Quindi conviene veramente fare della musica vera, questo è importante, tanto poi la gente se ne accorge quando è qualcosa di costruito, quando c'è qualcosa di costruito e tutto il resto. Io insomma per chi è d'accordo sui format, insomma io non sono molto per quella linea lì, però bisogna passarci, chissà, magari un giorno ci passo anche io, non lo so, mai dire mai, boh. Perché tanto qui... Sai, l'importante sarebbe che fossero genuini, semplici e onesti. Senza dire niente, per carità, non voglio mettere in discussione l'onestà, però oggi, insomma... Purtroppo il business ha bisogno di determinate cose e da lì non si scappa. Quindi la musica è all'ultimo... Lo so. Purtroppo le case discografiche, se esistono ancora le case discografiche, puntano esclusivamente sui grandi nomi. I nomi emergenti non c'è niente da fare. Hanno qualche caso sono diventati famosi all'estero e tornano in Italia, ora qualcosa c'è, ma non capita spesso, anzi capita molto raramente. Cioè i format, sì, i format aiutano, però come si è detto, il format, un ragazzo o una cantante, un artista la ricordi per 3 mesi e poi la dimentichi totalmente, non esiste più. Ma non danno modo, questo mai l'abbiamo sentito, risentito, lo dico anche io qui a Blu Radio Veneto, nel senso che non lo si fa crescere l'artista. Sì, esatto. Allora oggi tanti cantautori, no, con il loro primo album, quanti potrebbero essere oggi prodotti con quelle canzoni lì di una volta fatte nel primo disco? Nessuno avrebbe scommetterebbe oggi su quelle canzoni. Prendiamo un Vasco Rossi, no? Ma cosa vuoi che sia una canzone? Quell'album, no? Oggi chi potrebbe mai produrre delle canzoni? Vabbè che erano altri tempi, però cosa ha fatto poi Vasco Rossi? Gli è stato dato modo di farlo. Sì, perché c'erano persone diverse, cioè, e dopo quattro album, album è diventato Vasco, cioè è dovuto essere aver accompagnato, perfetto, sì. Quindi oggi nessuno fa questo, l'abbiamo saputo, ormai lo sappiamo, il successo veloce deve essere così, e io ho scritto non ho più pace anche per questa situazione. Ecco. Ti faccio bere un goccio d'acqua, ci ascoltiamo qualcosa dal perfetto, disco. Perfetto, cosa hai scelto? Allora, io direi di mandare, ecco perché questa canzone ci tengo molto, si chiama Desideri Diversi, quindi la posso anche presentare. A volte durante un percorso di vita si hanno dei desideri, no, che sono diversi da altri, ovviamente, che ci portano un po' ad allontanarci da chi ci sta vicino, ecco, mettiamola così. Per cui i desideri diversi, non sempre visti in chiave ovviamente negativa, ma anche positiva, perché le persone devono fare quel che sentono di fare, per cui tanti desideri diversi a tutti gli ascoltatori, ecco, di Blu Radio Veneto. L'ascoltiamo. Abbiamo desideri diversi, tu mi desideri, forse io no. Abbiamo caratteri diversi, tu mi comprendi, forse io no. Dobbiamo l'uno all'altro, tu mi dai tanto, forse io no. Dobbiamo l'uno all'altro e di tanto in tanto, di sicuro io no. Cosa mai sarò per te? Cosa mai ti darò che non dai a me? Quindi com'è che sei? Sei ancora qui, se fossi al tuo posto non direi ancora sì, ancora sì, sì, sì. Avremo percorsi diversi, tu mi rincorrerai, io no. Avremo ricordi diversi, tu mi ricorderai, io no. Diremo agli altri che ci siamo persi, tu mi rimpiangerai, io no. Diremo agli altri che siamo diversi, tu ti vergognerai, io no. Cosa mai sarò per te? Cosa mai ti darò? Siamo ancora qui, sarà che è stato scritto così. Abbiamo Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E siamo arrivati quasi alle 22 di questo giovedì 10 maggio 2012 in compagnia di Alessio Creatura, in compagnia della vostra emittente preferita, come piace dire sempre comunque il sottoscritto, cioè Blu Radio Veneto e poi ancora con le voci del sottoscritto, cioè appunto Agostino Spolaore, e con Maurizio Calzavale, mio fedele vecchietto che mi accompagna sempre nelle trasmissioni, ormai gli voglio un bel... Che tra l'altro voglio dire una cosa, che io parlando con Maurizio ho detto, ma ha dei tratti, somiglia al professor Roberto Vecchioni, me l'hanno detto un sacco di quindi gente, mi sento anche a casa, direi. Un professore onorato Roberto Vecchioni. Ah, sì, sono moltissimi, molta gente che è venuta qua a suonare mi hanno detto, questo. È vero. Il professore, professore. Ti chiamerò professore. Ritornando a questo pezzo, cioè a me piace il gioco del vibrato. Tu hai fatto il gioco del vibrato, sì, questo pezzo. Hai giocato. Hai dato un po' di falsetto, che non, sì, è semplice, è difficile. Ho ripetuto tante volte, a me piace particolarmente il falsetto, perché io reputo molto, molto arduo da, sì, fare e da non stonare. Certo, certo, poi dipende anche da falsetto al falsetto, perché se facciamo quello dei cugini di campagna... quello è un'altra cosa, però. Lì dovremmo fare... è difficile, però. Molto, molto difficile. Sempre nell'ambito dei cugini di campagna. Assolutamente, infatti. No, per cui sì, poi non è stata una scelta in realtà, non ci ho pensato, è stata una scelta istintiva, quindi inconscia, in realtà l'ho eseguito così il pezzo ed è venuto insomma fuori così. Ma quando vai in studio, quando andavi in studio, sì, per, sì, registrare questo disco, hai voluto, l'idea di questo arrangiamento è stata tua, Lorenzo ha solo seguito le tue, sì, i tuoi percorsi mentali, possiamo dire, per la maggior parte dei pezzi, sì, nel senso che si è basato molto sulla mia chitarra, quindi su come sono nate le canzoni, quindi chitarra e voce. E su alcune magari invece tipo se non ho più pace, visto che è un ritmo anche un po' più dense, sì, rock dance, diciamo, e lì ha fatto proprio una scelta, sì, lì è stata proprio una scelta diversa, da dare insomma una veste diversa al brano. Sul resto delle canzoni in realtà ci si basa un po' proprio su Alessio Creatura, chitarra e voce, per cui niente, ero molto già convinto di come dovesse venire questa canzone, per cui poi c'è quella parte strumentale, visto, dove c'è i corei, tu, sì, ecco, quella cosa lì. Lì è stata un'idea, per esempio, di Lorenzo. Hai fatto un discorso di Cesello, tu che sei molto dentro all'arte, essendo laureato in beni culturali, sei molto dentro all'arte. Cesello, hai detto bene, perché innanzitutto sono molto molto critico con me, molto, e poi sono quasi maniacale, cioè nel senso che il mio atteggiamento nei confronti proprio del disco, del fare un disco, è maniacale. A volte forse dai supero anche, vado anche oltre, però sono molto preciso, e poi sono un vergine, no? Si dice che siano molto... Però precisi. Credo che sia una cosa che lo fanno quasi tutti, insomma, quello di essere maniacali, perché però c'è Agostino, è una cosa che resta, no? Certo, però c'è chi te lo fa pesare, capito? Perché ci sono persone forse un po' più alla mano, ma sì, no, sì. Cioè, delle cose vengono fatte, devono essere fatte bene, quindi questa è la mia politica, il mio pensiero. Però insomma, una cosa sono soddisfatto. La cosa è tua, quindi certo, quando sei a posto tu, perfetto, vanno bene anche gli altri, insomma. Poi magari a me può andare, non andare bene, ma se sei tu che fai la canzone è a te che deve parole andare sante, bene prima di tutto, giusto? Parole sante. E qui c'entra un altro discorso, cioè i produttori molto spesso ci mettono lo zampino e magari certo, fanno sì, cambiano. Perché poi no, bisogna sempre scendere questi certo, compromessi, magari il pezzo gli sta sul naso all'artista e lo deve cantare lo stesso. E poi ecco, notiamo le trasformazioni, perché poi l'artista magari riesce ad essere sempre più presente, quindi notiamo che le cose, poi ce ne accorgiamo, quando piacciono all'artista piacciono anche alle persone, quindi certo, chi meglio dell'artista può conoscere il brano, per cui basta questa riflessione per capire che secondo me l'artista già sa dove vuole arrivare con quel pezzo lì, tutto sta a cercare magari un complice certo, che riesce, no, a capire l'artista e a valorizzarlo. Oltre ai musicisti che abbiamo citato nel disco, c'è qualche altra persona che ti ha dato una mano? Ma, il grafico sì, dopo il grafico citare. Gianluca ha detto Nafta, Gianluca Camporesi, secondo me è un artista, ecco, lo chiamo proprio artista, è fotografo, lui è un artista, ha collaborato con Lorenzo, quindi con Giovanotti, con Pavarotti, con Laura Pausini, lo saluto veramente perché ho una stima sconfinata per questa persona, di un'umanità incredibile. Poi ai cori non dimentichiamoci che c'è anche Monica Hill, che fu, partecipò alla prima edizione di Amici, questa ragazza, e poi ha fatto tanta strada. Oggi moglie di Andrea Morelli, chitarrista di Cremonini, quindi lavorano anche insieme. E oggi è in tour con Laura Pausini, quindi è la corista di Laura Pausini. Sono contento, no, di aver avuto anche una collaborazione con Monica Hill nel mio disco, nei cori. Oggi, insomma, sono contento della sua carriera. Ecco. Dove... spero che mi porti fortuna. Certo, ma insomma ci mancherebbe altro. Dove si può trovare il tuo disco, Alessia? Allora, fisicamente, sì, durante i miei concerti. Quindi non ho una distribuzione fisica nei negozi, anche perché di negozi non se ne trovano più. È vero. Quindi, mentre in digitale, ovviamente su iTunes, quindi si può scaricare lì il brano. Poi ci sono i link che ti portano a iTunes direttamente dal mio sito, oppure uno digita Alessio Creatura e vengono fuori. Ricordo il sito. Allora, www.alessiocreatura.com. Poi tra l'altro mi si trova anche su Facebook, ormai tutti sono su Facebook. Per cui lo ripeto, www.alessiocreatura.com. Chi vuole ascoltare e comprare, perché è importante la mia musica, perché io mi diverto quando mi piacciono delle cose le compro, quindi è importante per mandare avanti l'arte, quindi la musica. E vediamo dove andremo a finire con sto digitale, ragazzi, non lo so È un discorso un po' ampio questo, magari lo rifaremo un'altra volta. Io sono un po' contrario al discorso del digitale, perché insomma è bello avere il disco in mano, insomma. Meglio ancora il 33 giri. Certo. Sì, c'è un grande ritorno al vinile adesso, c'è un grande ritorno al vinile. Ah sì? Sì, un grande... detto una bella cosa. Sì, per il discorso del vinile, i cultori dell'hi-fi, del suono perfetto, se tu senti, faccio un esempio molto semplice, se tu senti The Wall... sì, in CD e senti, sì, The Wall in disco, senti che The Wall in disco è un'altra cosa. Ah certo. Nonostante che la tecnologia è avanzatissima, ma The Wall in disco è un'altra cosa. E poi parliamo, no, dell'analogico, del digitale. L'analogico è la vita. È la vita. Il digitale è bello. E può essere ibernato. Sì, perché nel digitale si può fare di tutto, si può, certo, tagliare, riprendere, ma nell'analogico no, non si può tagliare. Quello è. E se un artista è vero, grande, fa, cioè, dico, un paradosso, fa analogico, no? È digitale, vero, è quello discorso. Infatti nella masterizzazione, cioè in un processo del suono digitale, c'è stato un passaggio del disco in analogico, quindi le tracce sono passate un po' come una volta. Esattamente. E adesso cosa ci fai passare? Cosa vi faccio passare? Allora, io potrei fare una canzone a cui tengo molto, dal titolo Dimmi che cosa c'entra l'amore. Mi chiedo in questa canzone cosa c'entra, insomma, in tutta la mia storia, poi l'amore. E poi mi sono dato una risposta che in realtà c'entra proprio tutto, anzi è l'unica cosa che c'entra. Per cui questo è Dimmi che cosa c'entra l'amore. Ora non sono lucido, ora che più non scrivo, come un verso stupido, ecco come vivo. Ora che la realtà la sento più cattiva, odio questa città ed anche tu mi sembri meno viva. Dimmi cos'è che mi devo spiegare, dimmi perché. Non riesco a capire, e poi dimmi che cosa c'entra l'amore. Ora che sono cinico e che lascio che sia l'entusiasmo in bilico ed anche tu per causa mia, non chiedo alla realtà di essermi sincera, ora che questa vita mia l'ho scelta meno vera. Dimmi cos'è che mi devo spiegare, dimmi perché non riesco a capire, dimmi cos'è che ci dobbiamo aspettare tra me e te, ormai c'è più niente da dire, più altro da fare. E poi dimmi che cosa c'entra l'amore, dimmi che cosa c'entra l'amore, e dimmi che cosa c'entra l'amore, dimmi che cosa c'entra l'amore, dimmi cos'è che mi devo spiegare, dimmi perché non riesci a capire, dimmi cos'è, cos'è che ci dobbiamo aspettare fra te e me. Ormai non c'è più niente da dire, più altro da fare. Ora che sono cinico e che lascio che sia l'entusiasmo in bilico ed anche tu per causa mia, non chiedo alla realtà di essermi sincera. Ora che questa vita mia l'ho scelta meno vera, l'ho scelta meno vera, dimmi che cosa c'entra l'amore, dimmi che cosa c'entra l'amore, e dimmi che cosa c'entra l'amore, l'amore, dimmi che cosa c'entra. Che bella questa canzone, bellissima, grazie. Grazie, grazie davvero. Alessio Creatura qui a Blu Radio Veneto con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con la musica di questo disco che troverete appunto se volete acquistarlo, insomma, tramite iTunes e via discorrendo, ma ricontattando. Perfetto, poi tanti che, altri store ci sono su. Si intitola Non ho più pace. Se tu sei a casa, Alessio, cosa ascolti? Cosa ti piace ascoltare? Ah, guarda, da solo, insomma, voglio dire. Io sono sincero, sì. Insomma, ascolto musica con cui sono cresciuto, continuo ad ascoltarla perché ogni volta che la riascolto comunque mi dà qualcosa sempre di nuovo, mm-hmm. È importante, non è che mi si dice ma ascolti quel disco, ormai sono 15 anni che ascolti quel disco, in realtà sono cambiato io in quei 15 anni, quindi ogni volta che riascolto quel disco sono comunque diverso. Per cui ascolto gli artisti con cui sono cresciuto, Eugenio Finardi. Cosa di Finardi? Ma di Finardi, Sugo, è un disco fantastico, poi comunque ascolto Gianna Nannini, America, uno dei suoi primi dischi, insomma, mi piacciono tantissimo, anche gli After Hour, tra l'altro ascolto. Padania al nuovo, l'ho sentito. Non ancora l'ho ascoltato quello lì. Ah, grandi. Molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Fantastico, un regalo di Agostino, grazie davvero. E la radio è nata con questo pezzo. Bellissimo, vedi, è una storia storico, un pezzo storico che ha lanciato tutte le radio d'Italia, radio libere. È la radio libera, libera veramente, e noi siamo liberi veramente in ogni caso, musicalmente parlando. Allora siete veramente un caso rarissimo, una specie da conservare. Una mosca bianca. No, dicevi allora Finardi, Enrico Ruggeri, a cui sono affezionatissimo, io amo la scrittura di Enrico Ruggeri, ma sono affezionato anche a Samuele Bersani, mi piace tantissimo, Edoardo Bennato, Rino Gaetano, perché io con Rino Gaetano ci sono cresciuto in paese, in vacanza, sempre dai miei nonni. No? Perché Rino Gaetano è sempre associato un po' all'artista di paese, il paesano, no? Qua ci sono le feste che mettono sulle canzoni, oltre a Gian, ovviamente Berta Filava. Insomma, io sono cresciuto con Rino, lo amo tantissimo. Beh, visto che Blu Radio Veneto, ma il cielo si vive più. grande Rino, io l'abbraccio davvero sempre, è sempre nei miei pensieri. Io è un cantante che amo davvero tanto, tanto. Cos'è a dire? Anche lui se n'è andato troppo presto, insomma. Purtroppo, chissà grandi cosa artisti avrebbe fatto oggi, ce lo chiediamo un po' tutti. A quel tempo non era molto apprezzato comunque, sembrava un cantastorie. Era avanti, era avanti. Era troppo avanti per certe persone. è stato avuto grande successo a Sanremo, ma Sanremo è stato un caso, non era il suo modo di dire le cose. Ci sono dei brani fantastici, certo, certo. Gianna, diciamo quella proprio. Sì, più, quella più semplice, più accattivante, più da presa rapida, ma lui ha fatto tante altre cose, non da presa rapida, da presa proprio scheletrica, proprio sì. senza staccarsi direttamente. Tu forse, ecco, vedi, ecco qui. Gli ha dato successo, ma è stata un'arma a doppio taglio questa qui. Sì, esattamente. Anche perché lui ci ha sofferto molto di questa cosa qui. Perché, dico, non posso fare delle canzoni tutte così, no? Perché tutti chiedevano Gianna continuamente. E poi Gianna. Quando sai, poi lui festaiolo. Questa è una canzone che la gente si abbraccia, balla, no? Nelle feste. Oh. Esattamente. Però un grandissimo artista, ho tutti gli album e continuo veramente a consumarli perché è geniale. Anche gli arrangiamenti, Maurizio, cioè, hai visto? Sono attuali. Un brano come Non te regge più. Certo. Cioè, ma lui devi tenere conto che incideva per la HIT. L'HIT era l'etichetta alternativa della RCA. L'HIT era l'etichetta dei giovani emergenti. Fantastico. C'è gente che suonava. Micocci, no? È proprio lui, Micocci, che era un genio che aveva scoperto tutti. Venditti e De Gregori, gli ha scoperti Micocci, il Fox Studio e tutte ste robe. Eccola lì, grande Agostino, davvero. Un regalo dietro l'altro, non te regge più. Ragazzi, ma quanta gente oggi non reggiamo più? Vedi, era un testo profetico, esatto. All'epoca. Oh, i nomi ci sono ancora tutti oggi. Esatto, sono sempre quelli. Vabbè, a parte questi regali, insomma, tu ascolti questi cantanti qua, insomma. Ascolto, io sono italiano nel midollo. Infatti ho notato. Nel midollo. All'estero non... No, amo tantissimo gli U2. Vabbè, cosa sei? Esatto, amo tanto gli U2. E oggi i Coldplay, che poi sono un po', no? Il percorso, no? La continuazione un po' della musica che hanno le basi, che hanno messo gli U2, i Coldplay, sono gli U2 del 3000, cioè li definisco un po' così, certo. Amo anche loro, però quel genere di musica lì, Dage, è il mio mito. E poi ancora cosa ascolti? Cosa ascolto? Ascolto di musica, ti devo dire, inedita, non ne ascolto, quindi ascolto solo la mia. Alessio Creatura. Sì. Ah, Lucio Dalla, ascolto tantissimo Dalla, la buonanima di Lucio Dalla. Ascolto tanto anche lui, altri cantanti che ascolto. Vabbè, Vasco, sono cresciuto anche con Vasco, perché mio padre, ex appuntato dei Carabinieri, ragazzi, ascoltava Vasco in macchina. Perché sai, una volta il Vasco maledetto, no? I figli devono essere lontani da questa figura. Io mi ricordo, venne a Vasto, la mia città di origine, io volevo andare a vederlo. Era l'anno di C'è chi dice no. Certo. Mio padre ha detto... Te non vai da nessuna parte, rimani qua, nonostante ascoltassi in radio di continuo Vasco. L'album Bollicine, mio padre l'ha consumato e sono cresciuto ovviamente anche con lui. Ascolto Vasco però prima maniera, ci tengo a dirlo. Adesso ascoltiamo te però adesso. Esattamente. Cosa vuoi fare? Vuoi suonare dal vivo o vuoi ascoltare qualcosa dal disco? Guarda, vi faccio un pezzettino, facciamo di adesso e poi lo mandiamo, che dite? Come vuoi tu. Benissimo. Faccio giusto un pezzettino così di questa canzone. Parole addosso e sensi di rimorso, proprio qua, al centro qua, e ho ricordi adesso, ricordi sul mio sesso, ti vorrei qua, ancora qua, anche se adesso e soltanto adesso. Che senso ha averti qua adesso, ora che adesso e che muore spesso la tua onestà, perché adesso viverti adesso, che senso ha. centro qua. Io ricordi adesso, ricordi sul mio sesso, ti vorrei qua, ancora qua, anche se adesso è soltanto adesso, che senso ha averti qua adesso, ora che adesso è che muore spesso la tua onestà, perché adesso viverti adesso, che senso ha? C'è futuro addosso, ma il passato che hai rimosso è ancora qua, al centro qua. C'è futuro adesso, c'è futuro sul tuo sesso, sei già più là, e un altro è già, perché adesso è soltanto adesso. Perché se adesso, se ti chiedessi adesso, un po' più onesta, rimarresti qua. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Essere un cantautore significa avvertire la necessità inconscia di esprimere la propria persona, plasmata nel tempo da un universo di pensieri ed emozioni attraverso musica e parole. Quello che dovrebbe fare un cantautore è raccontare in maniera originale la vita. Parole tue. Già, sì, sì, e poi mi fa anche un certo effetto sentirle leggere da te, ecco. Sì, sì, sono parole mie. sono riuscito a sintetizzare esattamente come la penso. Come la penso, certo, certo. Alessio, siamo arrivati alla fine. Peccato perché il tempo è volato. Guarda, è la frase che dicono tutti. guarda, è proprio così, perché sai, un'ora e mezza è già tanta. È tanta. Invece vola velocemente. E già ti dispiace andare via. Mi dispiace. Ti aspettiamo il disco nuovo. Ah, guarda, è un ottimo augurio questo qui. Incrociamo le dita. Ma ci vieni volentieri a presentarlo. Guarda, tutte le volte che mi invitate io vengo qui a Blu Radio. A parte che Padova è una città bellissima. A me piace tanto. Poi sai, un conto è visitarla, un conto, certo, è viverla, tante cose, però oggi sono stato molto bene. Tu che sei immerso nell'arte, anche per, sì, lavoro, quindi l'hai vissuta due volte meglio. Insomma. Sì, sì, è bello, quando magari si capisce da dove arrivano determinate cose, no? Sì, sì, sì, sì. Allora, Alessio, che dire? Intanto ti ringraziamo di aver accettato l'invito, ovviamente, di nuovo. Ringrazio voi, grazie a Maurizio, Agostino, Blu Radio Veneto e tutti gli ascoltatori, li abbraccio, grazie dell'occasione, veramente. Io di nuovo ringrazio Linda perché è stata lei il tramite, insomma, per gancio, arrivare, il gancio per arrivare a te, grazie, sì, Linda, ancora di cuore. E ricordiamo velocemente il tuo sito dove si trova il disco, eccetera. Perfetto, eccetera. Il disco lo trovate su iTunes e altri store digitali. Ad ogni modo, se visitate il mio sito www.alessiocreatura.com avete tutti i riferimenti lì, canali YouTube, Facebook e store digitali, per cui anche fotografie, gallery fotografica, c'è anche un piccolo diario dove appunto un po' i miei pensieri, c'è tutto lì. Mi sono dimenticato di chiederti una cosa, Alessio, il prossimo concerto. Esatto, il concerto. Allora, il prossimo concerto, io tengo tanto ad un concerto che ci sarà a luglio in una piazza, perché amo suonare con la band, certo in acustico è una bella dimensione, ma mi piace il rock anche, quindi suonare. E sarò a Casal Borsetti, una piazza, quindi una frazione comunque di Ravenna, molto carina, vicino al mare, città turistica. Conosco. Alla Notte Rosa, quindi il 6 luglio, tanta gente sarà in giro. C'è anche una piadina favolosa da quelle parti. Perfetto, ecco qui. Quindi, sì, sì. Poi durante la Notte Rosa, sai quante piadine? È un goccio di Lambrusco e siamo, ecco, a posto. Quindi suonerò in piazza. Spero che sia davvero una bellissima serata. Chi vuol venire a farsi una gita, ecco, da quelle parti, io sarò lì il 6 dalle ore 21:30, 22. Sono là. Tienimi informato che magari se posso vengo più che volentieri. Con piacere. Ancora grazie, io vi do l'appuntamento a giovedì prossimo con Antonio Clemente, un altro maschietto, sarà presente a questi studi dalle 21 alle 22:30, sempre con Maurizio, con Agostino, e vi auguro un buon proseguimento all'ascolto dei programmi con Alberto Prisco e la sua musica rock, la sua classifica, quindi un appuntamento da non perdere, come sempre tutti i giovedì, o quasi, quando non può venire, insomma, ecco. E Maurizio, tu devi salutare, devi dire qualcuno? Sì, io ringrazio Alessio di aver partecipato a questa cavalcata di un'ora e mezza, questo disco assolutamente autobiografico, questi tuoi racconti, i tuoi 33 anni all'incirca. 34 anni. E ci sentiamo la prossima settimana con altre cose, con altri avvenimenti, basta cliccare nel nostro sito, gli avvenimenti sono tutte presenti. Con cosa ci saluti? Ma vi saluto con una canzone un po' easy all'ascolto, un po' roccheggiante, però dai, provo a farla chitarra e voce, si chiama La musica non è, e questa canzone la voglio dedicare a tutti coloro che non sono sempre propensi ad ascoltare musica. Ecco, vero. Diciamo un coro, la musica non è per voi, ecco, a tutti coloro che non sempre vogliono, o per mal di testa o per altri motivi, insomma, che ben venga la musica e anche di qualità, e quindi mi sono divertito con questo sfogo. Ciao Alessio, grazie ancora. Ciao, grazie. Grazie a voi, alla prossima. Yeah. Lo sai che io vorrei piacerti, parlarti, lo sai che io vorrei con te. E poi non è che piaccio e che parli, lo sai che io vorrei con te, ma è che la musica non è. Musica non è di per te. Oh, lo sai che io vorrei suonarti, cantarti, lo sai che io vorrei con te. musica non è. Se ti suono e poi ti canto, tu mi chiedi cos'è che fai. Perché quando sono con la musica di colpo poi tu non ci sei. Perché se ti suono e poi ti canto, tu mi chiedi cos'è che mi dai. Perché quando sono con la musica, perché la musica, sai che la musica, hey! La musica non è davvero te, la musica non è te, per te, per te, la musica non è te, un mistero, la musica non è te, per te. Ciao! Grazie.